La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci puntuali all'appuntamento con La Rosa Purpurea, con l'ora di cinema settimanale qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, settimana piuttosto intensa al cinema con 8 nuovi film nelle sale e con qualcosa di nuovo che si muove anche per quanto riguarda la classifica, dove American Sniper, sono dati aggiornati a circa 24 ore fa, è il primo film della stagione, il film di Clint Eastwood, 7 candidature agli Oscar, lo sapete ormai, il caso cinematografico dell'anno, il film di Eastwood che ha incassato di più in Italia, poi è partito anche a bomba negli Stati Uniti, ebbene ha superato i 16 milioni di incasso, è il film che ha incassato di più in questa stagione, ha superato Siani, ha superato Lo Hobbit, Aldo, Giovanni e Giacomo e compagnia bella, e mi sembra di poter dire non è finita qui. Noi ovviamente vi aggiorneremo in questo, ma soprattutto ci tuffiamo su quelle che sono le tematiche della settimana cinematografica in sala. Commedia italiana di vari tenori, presente e quasi dominante in questo weekend, ma anche azione con un film come John Wick, che riporta un Keanu Reeves quasi fumettistico ma molto molto efficace in questo ruolo. E poi ancora dagli Oscar, dai pre-Oscar diciamo così, arriva Steel Ellis, candidatura a Julianne Moore come miglior attrice, ne parleremo fra poco. Cominciamo subito allora con un film italiano, con Sei mai stata sulla luna? Questo è il titolo con punto di domanda del film di Paolo Genovese. Nel cast Raul Bova, Sabrina Impacciatore, Neri Marcorè, Sergio Rubini, Pietro Sermonti, insomma davvero una sorta di nazionale della commedia italiana, per la storia di una donna, la direttrice di una rivista di moda, che si trova a tornare in Puglia, di cui era originario suo padre, e a trovare fascino, forse amore addirittura, in un avvenente e saggio contadino del posto. Abbiamo chiesto a Chiara Pizzementi di raccontarci Sei mai stata sulla luna. Dopo la morte di mio padre, la masseria è passata a sua sorella e ora è morta pure lei. Sei l'unica erede del terreno, della masseria e di tutti gli anessi. Ci sono gli scorpioni. Tengono lontani i topi. Ma perché ci sono pure i topi? Meno male, mangiano gli scarafaggi. Lei è Guia, metà italiana e metà spagnola. Lavoro nel mondo della moda a Milano. Si trova a ereditare una masseria a Nardò in Puglia. Pensa di liberarsene in pochi giorni, ma sarà rapita. Prima dalle complicazioni, il cugino con ritardo mentale e il massaro, vedovo con figlio, che vivono nella casa. Poi dalla magia del posto e della gente, che nella sua semplicità è in netto contrasto con il mondo cinico e snob che ha vissuto finora. Un posto, questo paese in Puglia, dove le persone sono così. Tu rischi di finire come quella pubblicità incredibile dove i maschi dentro casa lavano in piazza. Che cosa curiosa. Perché voi ignoranti non sapete nemmeno che Houston è stata fondata da un pugliese che veniva da Ostuni. No. Ma dove? Sì signore. No. Houston in americano infatti significa Ostuni. E vado a incontrare inguaribile romantico o sognatore imperterrito. Che poi di inguaribile c'hanno solo l'alopecia. È l'unico sogno quello di portarti a letto. Sei mai stata sulla luna? Direi di no. E sono queste persone, questi attori, la chiave vincente del film. Liz Solari e Raul Bova sono la milanese e il massaro, ma la parte del gigante la fanno gli altri. L'universo pugliese, con i baristi in competizione Sergio Rubini ed Emilio Solfrizzi, il cugino Neri Marcorè, la svampita Sabrina Impacciatore, Paolo Sassanelli, Dino a Brescia, il fidanzato ragioniere nell'animo Pietro Sermonti e la collega Giulia Michelini. Sono loro a sostenere una pellicola che in scrittura e credibilità ha fin troppi salti e buchi e citazioni, una pellicola che è soprattutto molto lontana dalle belle costruzioni della banda dei Babbi Natale e Una famiglia perfetta, solo due dei precedenti del regista Paolo Genovese, che così racconta l'idea del film. La linea rossa che unisce tutti questi personaggi è quella del sogno sentimentale e del modo di inseguire i sogni, di chi rinuncia ai sogni, di chi non ci rinuncia per nessun motivo o di chi i sogni li cerca in un posto diverso dalla propria vita e dal proprio ambiente e poi invece si accorge che ce l'ha lì a fianco. Avete scelto due mondi veramente molto distanti. Scegliere due mondi che sono veramente l'opposto fa parte proprio della retorica narrativa delle favole. Questa vuole essere una favola e quindi i due mondi andavano veramente separati. Vince dunque la coralità. Ne rimarco re. Paolo Genovese è riuscito a portarli tutti a compiere un percorso, a crescere, e quindi credo che alla fine lo spettatore abbia in mente il percorso di ognuno, la linea che ognuno ha seguito. La pluralità di storie è un valore aggiunto al film e non si elidono l'una con l'altra. Grazie a Chiara Pizzimenti per averci raccontato Sei mai stata sulla luna, uno dei film italiani di questo weekend per quanto concerne la commedia. Più tardi avremo con noi Francesca Archibugi per raccontarci invece Il nome del figlio, e qui siamo in una certa atmosfera anche di commedia raffinata, diciamo, italiana, ma ne parleremo fra un po'. Adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade, poi torniamo insieme per parlare della proposta d'azione di questa settimana, ovvero John Wick. A fra poco. Eccoci qua con la seconda parte della Rosa Purpurea. Dicevamo action movie, c'è un film che arriva nelle sale italiane e ci ripropone un attore che, insomma, qualche stagione fa, diciamo così, è stato era un attore, oltre che tuttora un sex symbol assoluto, era uno degli attori di punta, insomma, del cinema mainstream. Stiamo parlando di Keanu Reeves, che troviamo in questo film di Chad Stahelski che si intitola John Wick e racconta la storia di un killer che, insomma, lui voleva stare a riposo, però le cose della vita lo riportano fuori alla grande e lui, diciamo, non si sottrae. John è concentrazione pura. Impegno totale e volontà ferrea. Qualcosa che tu, figlio mio, non sarai mai. Una volta l'ho visto uccidere tre uomini con una matita. Una cazzo di matita. Così parlava di John Wick il boss russo, che adesso è finito dall'altra parte della contesa, ma che una volta era il suo socio. Poi John Wick si era messo a riposo, aveva trovato l'amore, sua moglie muore nei primissimi minuti di malattia, lui rimane vedovo, ma la moglie aveva lasciato un regalo a distanza. Quando sapeva di dover ormai essere agli ultimi momenti di vita, aveva deciso di fargli recapitare un cagnolino, un cucciolo, subito dopo la sua morte, per farlo sentire meno solo. John Wick lo riceve, lo accoglie, sembra che questo possa essere quasi l'appiglio per un nuovo inizio, ma una banda, appunto, di malviventi, capitanata dall'oligarca che abbiamo sentito, ma soprattutto dove l'operativo è suo figlio, che è una persona abbastanza maldestra, schiaccia i piedi, diciamo così, e non solo a John Wick. John Wick si riattiva come una sorta di dormiente, appunto, riattivato da un pulsante, e da lì in poi è vera e propria carneficina. Una carneficina che nel film non risparmia niente nessuno, ma che ha i toni assolutamente del fumettismo più vero, e in questo senso chiaramente rende plausibile un film che altrimenti si farebbe fatica a finir di vedere. Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris. John Wick sempre sospeso sul filo del probabile e dell'improbabile, però poi devo dire che alla fine il divertimento è assicurato, e anche un Keanu Reeves mica da ridere, tutto sommato. Sì, tra l'improbabile e l'impossibile, direi. Se dovessimo trovarci in un mondo in cui ci sono tutti i killer a riposo che ci sono nel mondo del cinema e tutti così capaci di uccidere una cittadina di medie dimensioni, ci sarebbe da preoccuparsi, perché veramente sembra che al cinema almeno una volta al mese ci sia un killer infallibile che possa uccidere chiunque. Questo film ha tutto per annoiarci, in fondo, appunto lo stereotipo dell'uomo solo contro tutti, da shooter a Leon, è non abusato di più. L'uomo, l'antieroe che va avanti a forza di spari, va avanti a forza di poche frasi smozzicate e aforistiche, altrettanto. E in più qui c'è anche questa parte da PS I love you, cioè col regalo a distanza, in cui John Wick non è solo come un cane, ma anche solo con un cane. E il punto è però che, secondo me, l'intuizione qua è un po' quella che è venuta in mente a chi ha deciso che i pantaloni a zampe d'elefante dovevano tornare di moda. Qui si prende il cinema di John Woo, sostanzialmente, quello di Hong Kong, lo si riattualizza, si prende Keanu Reeves e si riesce, e questo è il vero miracolo, a farlo recitare bene, perché negli ultimi 10 anni, cioè da Matrix in poi, era diventato la controfigura di se stesso, e si decide di prendere uno stile talmente vintage, talmente efficace, ma comunque passato nel tempo e forse un po' dimenticato, da sembrare nuovo. E questa, secondo me, è la scelta più intelligente che fa il regista, oltre a quella di far parlare pochissimo Keanu Reeves, quindi non costringerlo a recitare più di tanto, ma stare lì con la presenza, che, come dici tu, non è mica da ridere, riesce ad essere credibile in questo personaggio che è veramente al limite dell'impossibile. E quindi alla fine John Wick si vede, è un film di genere, di quelli appunto da antieroi solitario tra i migliori che si sono visti negli ultimi anni, quindi ci si diverte e alla fine se la portano a casa molto bene. Bella macchina Mustang, Boss 429 e 70 69. Ah, che figata. Grazie. Quanto vuoi? Come, scusa? Voglio sapere quanto vuoi. Non è in vendita. Non è in vendita la macchina, non è in vendita John Wick, è un film tra l'altro dove nei momenti in cui non si spara e sono pochissimi c'è una certa ironia anche nei personaggi, e questo sicuramente lo aiuta. John Wick, action movie con Keanu Reeves nelle sale. Noi a questo punto giochiamo insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi. Alzati, Pivello, non ho ancora finito. La smetti di chiamarmi Pivello? E perché? Come devo chiamarti? Sacco? E allora, un film da indovinare, dovete provarci con questa traccia e con la prossima che vi faremo ascoltare fra poco, ma se qualcuno l'ha già indovinato, ci scriva alla Rosa Purpurea @radio24.it, ci scriva il nome del film, il titolo del film e il proprio indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questa pellicola. Più tardi, appunto, un'altra traccia. Allora, cambiamo decisamente genere e clima per parlare di un film che è fra quelli che animeranno la notte degli Oscar il 22 febbraio. Stiamo parlando di Still Alice, film diretto da Richard Glatzer e Wash Westmoreland, con Julianne Moore e Kristen Stewart e Alec Baldwin, che sono il trio principale di questo film. Julianne Moore candidata all'Oscar come migliore attrice per una storia di malattia, una storia di Alzheimer, la storia tra l'altro tratta da una storia vera, la storia di una donna che non vecchia, non anziana, neanche anziana, una donna di circa 50 anni si trova a lottare con una forma precoce di Alzheimer e a essere estremamente cosciente, per quanto può sembrare paradossale, di tutto quello che la sua memoria piano piano sta perdendo e di quanto la sua vita a breve cambierà in maniera drammatica. Voi potreste dire che ciò rientra nella grande tradizione accademica di conoscere sempre di più su sempre di meno fino a sapere tutto di nulla. Ma spero di riuscire a convincervi che osservare i primi passi di questi bambini entro... Lo so, non avrei dovuto bere quello champagne. Dicevo, entro il patrimonio di parole di una determinata lingua, noi apprenderemo informazioni cruciali riguardo al rapporto tra memoria e computazione, che è l'autentica essenza della comunicazione. Allora, avete sentito uno dei primi momenti in cui alla professoressa Alice Holland della Columbia University di New York cominciano a saltare alcuni parametri di memoria durante una lezione con gli studenti, un piccolo primo campanello d'allarme, poi ne arrivano subito altri e fanno scaturire una visita dalla quale arriva il drammatico verdetto. Alzheimer precoce è anche piuttosto galoppante, però Alice è una donna che ancora nell'età in cui può cercare di gestire, per quanto difficile possa essere questo futuro prossimo, davvero drammatico. Lo farà con una serie di stratagemmi, ma vedrà anche attorno a sé piano piano la propria famiglia cambiare inevitabilmente rispetto al confrontarsi con questa terribile malattia. Boris, dicevamo per Julianne Moore meritata nomination all'Oscar. Proviamo a parlare solo del film, nel senso che è chiaro che l'implicazione della malattia è un'implicazione molto emotiva, chi l'ha vissuta sa perfettamente di cosa si sta parlando. Forse in questo senso c'è il limite più grande, a mio modo di vedere, del film, cioè quello di non far altro che mettere in fila una caduta agli inferi dell'Alzheimer, che non stupisce per niente chi, ripeto, ha avuto in famiglia casi di questo tipo, con un nonno, con un padre, con un genitore, ma tutto sommato cinematograficamente non mi sembra ci siano tentativi di metterci un colpo d'ala cinematografico qua e là. Ma non sono assolutamente in disaccordo, nel senso che una cosa è vera, che il cinema sta molto riflettendo sulla memoria, che può essere la memoria storica, la memoria collettiva, ma anche la memoria personale. E non, questo è uno dei tanti film sull'Alzheimer che abbiamo visto negli ultimi 5 o 6 anni, sempre da grandi registi interpretati da grandi attori. E probabilmente perché la memoria a breve termine, a lungo termine, la memoria e soprattutto quella a lungo termine si sta perdendo in generale, Alzheimer o no, e questo il cinema deve raccontarlo in qualche modo. E sono d'accordo con te che i registi non riescono a dare un colpo d'ala cinematografica, ma credo che siano schiacciati da una parte dall'argomento, che è straordinariamente cinematografico, cinicamente parlando. Avere una perdita così grande, un mostro come lo squalo che non vedi mai ma che senti addosso tutto il tempo e sai che ti può prendere in qualsiasi momento, è forse il regalo cinematografico più grande che puoi avere. È difficile metterci qualcosa in più. E dall'altra hanno degli attori, e in particolare Julianne Moore, talmente bravi che forse sarebbe anche un delitto non rimanere lì e semplicemente fotografarli, assistere a quella performance. Tra l'altro mi piace parlare anche di Kristen Stewart, perché secondo me quest'anno meritava una nomination. Assolutamente d'accordo, Boris, perché effettivamente stavo per dirtelo, vabbè Julianne Moore, ma si sa il ruolo di questo tipo per l'attore è manna dal cielo, no, ovviamente. Però Kristen Stewart, che fa la figlia un po' scontrosa, un po' ombrosa di questa donna, devo dire io l'ho trovata straordinaria. Bravissima, tra l'altro meritava secondo me una nomination, anche perché ha dimostrato di tenere testa a due attrici mica da ridere, perché Princess Maria non fa in fondo un ruolo molto diverso e tiene testa Juliette Binoche, qui lo fa con Julianne Moore. E comunque il colpo d'ala cinematografico alla fine del film, che è un film che io promuovo e per me è il film della settimana, secondo me alla fine c'è a livello di scrittura, si riflette sul ruolo della letteratura, della cultura, in fondo come stratagemma, come bastone che ti può aiutare in un viaggio così difficile, così pericoloso e così devastante. Ed è proprio la letteratura che in qualche modo rappresenta il nuovo sentiero, il nuovo vecchio sentiero che Alice prende. Ed è una scelta secondo me non banale di sceneggiatura, che gli dà, insomma, impreziosisce il film. Il film è molto buono, sono d'accordo con te che non c'è il colpo d'ala, il colpo di tacco dei registi, ma forse in qualche modo non doveva esserci e non poteva esserci. E allora, questo è Still Alice nelle sale, noi mandiamo in sala, a nostre spese, diciamo così, no, regaliamo a cinque coppie di nostri ascoltatori l'ingresso per Still Alice. Basta da questo momento scrivere un sms al 349-238-6666 con scritto Still Alice, e i primi cinque riceveranno poi dalla nostra segreteria le indicazioni per poter andare a vedere al cinema questo film in coppia. Ricordo ancora 349-238-6666 per andare al cinema a vedere Still Alice. Grazie Boris, appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana, buon cinema. Eccoci ancora qua, terza parte della Rosa Purpurea. Come annunciato, è arrivato il momento di parlare di quello che secondo noi è comunque il film della settimana, ovvero Il nome del figlio, il film che segna il ritorno sul grande schermo di una regista che ha segnato momenti importanti del percorso cinematografico italiano, a partire già dagli anni 90. Stiamo parlando di Francesca Archibugi, che si cimenta con una sorta di remake che, come dicono quelli che se ne intendono sembra più un reboot, cioè una ripartenza da un testo e da un titolo già utilizzato al cinema, ma per poi sondarlo in maniera con personaggi, con caratteri, con vestiti assolutamente diversi. Stiamo parlando del Nome del figlio, alla base di tutto una pièce teatrale di grande successo in Francia che si intitolava Le Prénom, come dicevo già un film francese che era anche arrivato in Italia che si intitolava Cena tra amici. Qui invece il concetto del nome, il nome del figlio, appunto il titolo italiano, è sicuramente più aderente a quello della pièce, ma anche più aderente al cuore del film, che ruota tutto intorno a una sorta di resa dei conti fra fratelli e cognati qualche anno dopo alcuni fatti, non vorremmo essere troppo specifici, proprio attorno alla scelta del nome di un figlio che sta per nascere. Pieno di sorprese, con un cast veramente eccezionale. Fra poco ne parliamo con Francesca Archibugi. Ascoltiamo prima questa clip. Cosa si scatena nel momento in cui sembra che al bambino voglia essere affibbiato un nome piuttosto ingombrante, un nome che la storia ha già, diciamo così, condannato? È matto. Ha bevuto un po'. Ma ti rendi conto di chi parliamo, di quello che ha fatto? Si può sopportare questo cazzo di revisionismo storico? Ma di che parliamo, scusa? Che cosa ha fatto? Io non lo so che cosa ha fatto. Cosa ha fatto? Ma questa mica si ascolta quando parla. Guarda, per amore, hai 10 tweet. Questa è qui. Se hai qualcosa da dire a questa, glielo dici in faccia, va bene? Allora te lo dico, calmo. Simona, tu sei l'incarnazione della disfatta del nostro paese. Paolo. Addirittura. Paolo, parla, finisce male. Certo che finisce male, mi voleva far incazzare, c'è riuscito. La pianti o no questo tono? Chi sei tu per parlarmi così? Rispondi che non sai stare con la gente normale. Avete sentito già queste scintille, anche un po' lotta di classe in un certo senso, da una parte Paolo, agente immobiliare, molto smart, molto brillante, dall'altra parte Simona, scrittrice che viene dalle periferie romane, due mondi che si scontrano con quelli invece degli ospiti di questa casa, che appunto hanno invece un pedigree universitario di alto livello, ma alla base c'è appunto questo concetto di un figlio che deve arrivare e di un nome da assegnare. Noi salutiamo al telefono Francesca Archibugi, che è qui alla Rosa Purpurea. Ciao Francesca. Ciao, buongiorno. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Sei partita, come dicevo prima, da un testo che aveva già dato origine a un film, del resto di cene nelle quali poi, come dire, tutto scoppia, se ne sono viste. Come hai lavorato a renderlo però un film, come dicevo poco fa, particolare, molto italiano e anche, come dire, con una profondità, a mio modo di vedere, nei personaggi che forse nell'omologo francese non c'era? Beh, diciamo, noi tornando alla pièce teatrale abbiamo preso lo scheletro di questa commedia molto molto ben scritta e ben congegnata, con colpi di scena e ribaltamenti di fronte, e abbiamo però, diciamo, lavorato essenzialmente sui personaggi con naturalmente anche delle diversificazioni narrative. Per esempio, lavorando sui personaggi abbiamo sentito molta la necessità, insieme a Francesco Piccolo, che ha scritto con me la sceneggiatura, di vedere anche il passato, di sapere da dove provenivano, che non fosse una bolla soltanto di un divertimento, di una cena feroce, ma che fosse qualcosa che venisse da lontano, ecco, questa notte dei lunghi coltelli che si scatena in forma poi tutto sommato di commedia, e viene da lontano, sono dai rancori mai assopiti che questo gruppo di personaggi hanno l'uno contro l'altro. Senti, si è citato, appunto, si sono citati in questi giorni diversi film, appunto, tra parenti serpenti e dintorni, ma a me, vedendolo, sono venute in mente due pellicole che, se vuoi, fanno un po' la parabola, no? Cioè il tuo film è una sorta di parabola che parte da un punto e finisce all'altro. Da una parte, all'inizio il film comincia un po' ricordando l'Italia-Germania 4-3 di Barzini, no? Un ritrovo 30 anni dopo, anche per scoprire come eravamo e che cosa è rimasto irrisolto tanti anni fa che ci ha portato a essere quello che siamo. Ma poi finisce quasi come Carnage di Polanski, cioè svolano veramente gli stracci. Ecco, misurarsi con questo tipo di parabole, no? Con il tempo che passa, com'è visto e considerato che in questo senso l'immaginario, diciamo, cinematografico dello spettatore è anche già abbastanza ingombro in questo senso? Cioè, su cosa si lavora in sceneggiatura per cercare di, per esempio, di dire qualcosa di nuovo e di attuale, come hai fatto tu? Ma sai, le strutture narrative in realtà non sono tantissime e sono come sempre degli archetipi drammaturgici, cioè ci sono il tutto in una notte e la rimpatriata è una cosa che c'è già nell'Odissea, per dire. Quindi è una struttura narrativa che poi uno abita come vuole e soprattutto riesce a rovesciarci dentro tutto quello che pensa dei propri personaggi. Cioè, noi abbiamo cercato di toccare delle cose innanzitutto di un gruppo di persone che si amano moltissimo, perché il conflitto non è che, per esempio, Carnage, quelle due coppie non si conoscevano, e questa è una grande differenza. Erano coppie che si conoscevano di un film molto bello e soprattutto di una commedia molto, molto bella di Jasmine Reza, mentre invece i nostri si conoscono, e questo rende tutto un po' bollente e più sentimentale, perché naturalmente fare la resa dei conti con tuo fratello oppure con il tuo amico che condivideva con te il banco al liceo e tu sei stato bocciato e lui invece no, naturalmente dopo anni, decenni, ti spinge a rivelare di più e con più forza ciò che sei diventato. Ecco, Francesca, il cast, dicevo prima, veramente non riesco a trovare una lacuna in questo senso, perché tu hai utilizzato attori molto diversi per estrazione, per tipologia, per mood proprio interpretativo, no? Dal brillante Alessandro Gassman all'intensa figura di Micaela Ramazzotti, a Luigi Locascio, a Rocco Papaleo, a Valeria Golino. Li hai messi insieme e da ognuno hai, secondo me, onestamente tirato fuori il meglio, però tenendoli dentro un recinto recitativo che era quello che volevi tu. È un lavoro, a mio modo di vedere, difficilissimo. Spesso capita che l'attore scappi di mano al regista, che non riesca a domarlo e a tenerlo dentro il mood che ha deciso di dare al film. Tu cosa hai fatto? Hai usato molto frustino o molti biscottini? No, noi abbiamo fatto molte prove prima delle riprese, e non prove teatrali, proprio prove cinematografiche con la macchina da presa, già stabilendo le inquadrature, i movimenti, tutto quanto. Naturalmente una prova meticolosa e pignola ti consente, e quindi anche tutta una registrazione, della registrazione proprio intesa nel senso di accordo fra di loro, ti consente poi, quando arrivi a girare, veramente di essere libero e lasciarli anche liberi di improvvisare, perché un grande lavoro era già stato fatto di amalgama. Naturalmente avevo molto chiaro che cosa volevo da loro, anche perché li avevo scelti, e non sempre gli attori di prima botta capiscono. E lavorare insieme è bellissimo proprio per questo, perché se c'è fiducia si lasciano piano piano, pur essendo loro stessi, portare verso un'altra cosa. Cioè, il rischio di questo film era perdere il realismo, e quindi spesso gli attori di commedia, per generosità, tendono a macchiettizzare i personaggi, o soprattutto se hanno delle vere battute da dire, tendono a dirle come se fossero delle battute, non come quell'umorismo involontario che esce dalla vita. Sono un gruppo di amici che cazzeggia. Esatto. E bisognava tenere quello spirito delle risate che ci facciamo, certo, con i nostri amici la sera. Certo, e devo dire che un contributo decisivo in termini di senso di realismo, a mio modo di vedere, lo dà una sempre più straordinaria Micaela Ramazzotti, che io voglio citare come più degli altri, perché chi andrà a vedere il film, e sono in tanti che lo stanno già andando a vedere, lo vedrà, è un'attrice che, a mio modo di vedere, di film in film si rivela una vera risorsa. Mi piace l'espressione che ha usato Marzia Gandolfi, la collega Marzia Gandolfi, su di lei, cioè un'attrice in purezza, no? Come quando si parla di un vino in purezza, cioè fatto solo con un vitigno. Ecco, lei sembra uscita così dalla vita proprio, ed è straordinaria a mio modo di vedere. Micaela ha proprio un grandissimo talento naturale, che poi con molta intelligenza è riuscita ad acquisire un'immensa tecnica, perché Micaela comunque ha fatto tanta gavetta, lei ha fatto tante fiction, lei ha fatto il primo film a 27 anni e già recitava da 10, quindi è una che veramente unisce la grande spontaneità che non ha mai perso al fatto che ha una grande tecnica e la nasconde. Infatti è strano, perché tutti pensano che lei sia così, ma lei è una vera attrice, è una vera attrice. Perché pensi che io non apprezzo il tuo lavoro? Perché pensi che non abbia letto il tuo libro? Quando muore F? F è la protagonista, è al finale, che è bellissimo. Più tre quarti, metà, però più tre quarti che si addormenta nel sonno. Nel sonno si addormenta lentamente, perché è un flashback. Mi ero confuso proprio perché era un flashback. Amore, amore. Straordinaria anche questa scena fra Michele Ramazzotti e Alessandro Gassman. Noi salutiamo e ringraziamo Francesca Archibugi, regista di Il nome del figlio nei cinema italiani da questo fine settimana. Ciao Francesca, grazie ancora. Ciao, per essere stata con noi. Grazie a voi. Ciao. E allora è arrivato il momento di giocare con il secondo frammento del film misterioso di oggi. Devi smetterla di disobbedire. Lasciami stare. Va bene, buono, calma. No, non mi calmo. Prima di te, mi cancelli te. Ti stiamo solo proteggendo. È per il tuo bene. Non potete tenermi qui per forza. Non puoi andare via. E allora, se avete capito di che film si tratta, scrivetecelo alla rosapurpure@radio24.it con il vostro indirizzo privato per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film, che sveleremo la prossima settimana. Invece, fra poco, torneremo insieme e parleremo di collezionismo cinematografico, prima di passare all'ampia pagina dedicata ai film da vedere in casa. Restate con noi. Eccoci qua, la Rosa Purpura quarta parte. Dicevamo, prima di passare ai film da vedere a casa, c'è uno spazio dedicato ai collezionisti cinefili e cinematografici, e siccome io sono uno, penso, dei principali esponenti di collezionismo vivente, nel senso che colleziono praticamente quasi tutto, e soprattutto quello che riguarda il cinema, dagli oggetti a copioni a tutto quello che è, ho visto arrivare un giorno in redazione questo comunicato di una manifestazione che si chiama CinemaCord, nome bellissimo peraltro, che si tiene oggi ancora fino a stasera, con una lunga notte poi di proiezioni, e domani, domenica 25 gennaio, al Museo del Manifesto Cinematografico di Via Gluck 45 a Milano, la mitica Via Gluck di Adriano Celentano. È un bellissimo spazio nel quale alcuni appassionati di cinema, critici, gente appunto di cinema, ha deciso di dare vita alla prima manifestazione per i collezionisti cinematografici, perché tutto ha una sua manifestazione, una sua convention nella quale arrivare, comprare, vendere, trovare cose introvabili, memorabili, eccetera, ma chissà perché il cinema fino adesso in termini organizzati non ce l'aveva. Ci hanno pensato appunto alcuni amici, fra i quali c'è in collegamento anche con noi Claudio Bartolini, che saluto. Ciao Claudio. Ciao Franco, è un piacere, sempre. È un amico, dicevo, ma anche un critico di rango e animatore di una casa editrice che si chiama Bietti e che di saggistica sul cinema ne sa una più del diavolo. Allora, Claudio, tu sei stato lì in queste ore per allestire tutto, la manifestazione è iniziata appunto da qualche ora, un weekend, chissà che negli anni prossimi non diventi un po' più lunga, ma ti chiedo, dammi un paio di esempi di pezzi che quando sei arrivato lì li hai visti e hai detto, ah cavolo, questo in una collezione di cinema ci vuole. Beh, direi che lo stand della Digit, delle colonne sonore, è sempre un piacere da vedere, anche perché poi impreziosito dal box set da collezione in vinile per il 40° anniversario di Profondo Rosso. Tra l'altro sarà presente Simonetti tra pochissimo a presentarlo. Dunque, per appassionati di colonne sonore, collezionisti di colonne sonore, è sempre un piacere. E poi uno come me non può fare a meno di notare la mole di manifesti, poster, locandine, fotobuste che collezionisti, molti anche privati, decidono di mettere a disposizione del pubblico. Inoltre, in una cornice come questa, che fa del manifesto cinematografico la propria realtà, il proprio motivo di esistenza, il tutto è ancora più suggestivo, ecco. Claudio, un appuntamento flash per domani domenica, per dire ai nostri ascoltatori qual è l'evento clou di domani? Ma è ovvio che io ti rispondo alle ore 14, la presentazione del nuovo cinema di Hong Kong, il volume che abbiamo pubblicato ormai da qualche mese di Emanuele Sacchi e Stefano Locati, e alle 18, sempre di domani, il volume, la presentazione del volume Wes Anderson, Genitori, figli e altri animali, scritto da Ilaria Feole di Film TV, ma questa è anche, queste segnalazioni sono anche dettate dalla convenienza. Estendendo un po' il discorso, aggiungo che alle ore 15 è previsto il festeggiamento, un incontro festeggiamento in occasione dei 20 anni della rivista Notturno, che tutti gli appassionati di cinema di genere non possono non conoscere, alla cui presenza, per la quale saranno presenti Davide Pulice e Maglio Gomarasca. E alle 16 una tavola rotonda che modererà l'amico Filippo Mazzarella, amico e collega Filippo Mazzarella, con ospiti Maurizio Nichetti, Bruno Bozzetto, insomma nomi che fanno sempre il loro porco mestiere, come si suol dire in questo caso. Allora, grazie a Claudio Bartolini, ricordo ancora Cinemarcord, Museo del Manifesto Cinematografico, fermo immagine in via Gluck 45 a Milano fino a domenica sera, ma anche stasera festa grande fino a tardi. Grazie Claudio. Grazie a te Franco. E allora, abbiamo dato un'indicazione a tutti i collezionisti cinefili, andiamo a dare un'occhiata invece, anzi a dare un'ascoltata a quello che era il nostro game della scorsa settimana. Io ho assorbito CPH4 sintetico che mi permetterà di usare il 100% delle mie capacità cerebrali. Ora sono al 28% e quello che lei ha scritto è vero. E allora, si trattava di Lucy, il film di Luc Besson, con questo avevamo giocato la scorsa settimana, con Scarlett Johansson grande protagonista. Hanno indovinato per primi e si portano a casa il Blu-ray di questo film Luca Saruggia, della provincia di Como, e Sergio Mocci, da Villa Cidro. E questo è appunto il game della scorsa settimana, che andiamo ad analizzare per quanto riguarda l'edizione un video con Film TV e con Giulio San Giorgio. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, la storia è questa: la mafia cinese le taglia lo stomaco, lo riempie di una nuova droga sintetica che in lei si scioglie, e così incredibilmente comincia a gestire ben oltre che il 10% del cervello e a conoscere lo scibile possibile, come una sorta di Wonder Woman, una sorta di oltredonna. Prendere o lasciare, autorealismo volgare a suo modo teorico, sul filo della parodia. Lucy è un fumettone sublime, un intrattenimento veramente sfacciato, è una sorta di Bignami for Dummies di filosofia zen, ma a rotta di collo. A mio avviso un film divertentissimo, si viene a patti con l'assurdità delle premesse, ed è un successo interplanetario firmato Luc Besson, che fa in Francia quello che solo Hollywood si possono permettere. E l'interprete, come dicevi, è Scarlett Johansson, che è un'altra delle martiri di Besson e che ultimamente si reinventa nella fantascienza, come dimostrano ad esempio lei e Under the Skin. Sul Blu-ray c'è veramente poco da dire, nel senso che è un Blu-ray ottimo e privo di nei, con due focus parascientifici negli extra, una chicca da avere, insomma. E allora, questo per quanto riguarda il game della scorsa settimana, Lucy. Per quanto concerne invece le segnalazioni di film da vedere in TV, nella prossima settimana arriva il 27 gennaio la Giornata della Memoria, ed è sempre un momento in cui la televisione chiaramente risponde rispolverando film sull'Olocausto, ma non solo, su quel periodo in generale, con anche possibilità di rivedere grandi capolavori. In questo caso, Giulio, veramente ce ne sono tanti, da Rivederci i ragazzi di Louis Malle alla Lunga notte del 43 di Florestano Mancini. Sì, abbiamo scelto di segnalare questi due, quindi partiamo lunedì sulla 7D a mezzanotte 55 a Rivederci i ragazzi. Siamo nel 1944, due giovani in un collegio nella Francia occupata dai nazisti, in questa storia di amicizia, di scoperte gioiose, ma anche ovviamente dell'impatto terribile improvviso con la guerra che li separa, con la differenza, la brutalità e la morte. Lui mal coltivava da tempo il sogno di realizzare questo film e racconta tra l'altro un momento della sua vita, avvicinandosi col suo cinema alla commozione di Truffaut e al senso del peccato di uno Chabrol. Un film veramente rigoroso e misurato, con aperture poetiche bellissime e la capacità anche di chiedere una risposta morale e etica anche ai giovanissimi. Seconda invece segnalazione, martedì su Removie alle 8.50, La lunga notte del 43, che è il film d'esordio di un regista tutto sommato dimenticato che si chiama Florestano Vancini, e costituisce una delle sue opere più significative perché per la prima volta si sofferma sulla drammatica guerra civile tra partigiani e repubblichini di Salò, su un tessuto narrativo basato su un episodio storico veramente accaduto, ovvero l'eccidio a Ferrara di 11 antifascisti. Vancini imbastisce una vicenda sentimentale, una storia privata a sua volta mutuata da un racconto di Giorgio Bassani, un film veramente sobrio, asciutto e decisamente maturo, molto bello. E allora lunedì 26 gennaio sulla 7D alle 0.55 Re Warless and Fanta, arrivederci ragazzi, Louis Malle. Martedì 27 gennaio, giorno della memoria, La lunga notte del 43 di Florestano Vancini su Rai Movie alle 8.50. Grazie Giulio, appuntamento la prossima settimana. Ciao, alla prossima Franco. E con la nostra rubrica dedicata ai film da vedere in casa si chiude, come sentite dalle note della sigla, La Rosa Purpurea. Appuntamento fra 7 giorni qui su Radio 24 per tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisi.